una notte buia in Bolognina, ma sentivo quel suono e mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69 all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Questo messaggio è rivolto ai rivenditori di serramenti. Hai inviato un preventivo al cliente con pratica edilizia aperta prima del 30 dicembre 2023, ma non puoi applicare lo sconto in fattura. Contatta la Simio SRL e insieme troveremo la giusta soluzione. Con Simio SRL hai uno sconto immediato in fattura del 75% per la ristrutturazione della tua casa. Se hai una pratica edilizia depositata prima del 30 dicembre 2023, hai ancora la possibilità di usufruire dello sconto in fattura per la sostituzione di infissi, porte interne, porta blindata, impianto elettrico e rifacimento del bagno. Simio SRL, via dei Macabraccia 8 a Casalecchio, 051 1998 2832 o simiosrl.it. Per la giornata mondiale della lingua madre, sabato 17 febbraio, l'associazione Sopra i Ponti, la scuola di arabo Il Ponte Alcantara propongono alle ore 18 l'Hal Trans, uno spettacolo di Arraga Lab, teatro clandestino. E alle ore 21, cena marocchina, couscous con carne o vegetariano, tè alla menta e dolci tipici. Prenotazioni al 370-3234-701. L'evento è ospitato da Camere d'Aria, Officina delle Arti e dei Mestieri, in via Guelfa 40/4 a Bologna. non importi della vitamina C, i miei vent'anni hanno un grande panorama, non prendo l'ascensore nemmeno quando scendo all'interrato del tuo cuore, non mi diverto andare bene a scuola, non mi disturba la tua eterosessualità, eppure cerco quello che chiamano amore, lo intravedo dentro all'officina dell'umanità. Che visione allargata del tuo petto, che dichiara appunto mente guerra alla vita mia, che terrore che mi provoca il tuo difetto. E che difetti hai, e che difetti ho, e che difetti hai, e che difetti ho. E mi conduci fino alla tua tela, dove l'inverno eterno, dove il giorno è sera, e intanto cerco quello che chiamano amore, lo ritrovo dentro l'officina dell'umanità. Che visione allargata del tuo petto, che dichiara puntualmente guerra alla vita mia, che terrore che mi provoca il tuo difetto. E che difetti hai, e che difetti ho, e che difetti hai, e che difetti ho, tu che difetti hai, e che difetti ho. Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E pensavate che vi foste... fossi liberati di noi, e invece no, siamo qui e c'è un Panta dietro lo schermo con fare interrogativo. Voi non capite la meraviglia che traspare dal mio sguardo, anche perché è una radio, non una TV, grazie a tutti gli dei pre e post sumerici. Ma che succede? Che il microfono che io brutalizzo ogni lunedì, perché con le mie P e le mie T marcatissime che lo fanno spegnere, ha una... L'antipop, ma in una maniera molto, cioè, molto questa cosa è bellissima, cioè, ha appena svoltato il mio lunedì. Un lunedì segnato dal fatto che io sono riuscito a sbagliare strada per venire in radio, ed è per questo che siamo così vergognosamente in ritardo. Faccio questa strada da quando avevo i capelli, ok? Eppure stasera travolto da un insolito destino, dal caldo d'agosto. Esatto. In effetti, considerando che ci sono stati 16 gradi, esatto, meno che stasera ho imboccato per il Sant'Orso. È così, va bene. I maligni dicono è perché spesso ci passi più tempo che non a casa, e anche questo, ahimè, è vero. Quindi, ma va tutto bene, va tutto bene. Buon lunedì, ascoltatori e ascoltatrici di Panta 80. Salve, questa siamo tornati in duo. Esatto, questa è Radio Città Fujiko, questo è 103.1 FM, radiocittafujiko.it. E noi siamo Panta e Andrea, noi, sì, cioè tutti quelli che parlano. Sì, sì, esattamente, esattamente. Con un ego tracotante vi dobbiamo dire un sacco di cose. Per questa sera abbiamo cominciato con 18 minuti di ritardo. Ma non vigliacco il governo, che va sempre bene. Quello va sempre bene. Ma in realtà siamo in tema con la puntata, perché siamo non siamo in ritardo. Siamo stati lunghi tanto quanto un caricamento di GTA 5 sulla PlayStation 3. Capisco. Perché questa sera succede ogni anno, è una delle nostre puntate dedicata al nerdismo più spinto. Ok, poi c'è un'occasione, comincio a dirlo, faccio la mia brava marchetta del periodo, perché sabato, il 16 e il 17 di febbraio, cioè il prossimo weekend, detta proprio come va detta, mi sembra sia il 16 e il 17, se non vado errando, aspetta, vediamo. O forse addirittura 17-18, perché io sono d'altronde io sono sul fuso orario di Tokyo, drift, tanto per rimanere in tema, a Bologna Fiere c'è il Nerd Show. Non show con la W, non show, no, non show, è nerd show, show. No, non nerd li mandiamo. Show. No, a noi no, nerd no, piacciono, anzi, non li mandiamo via, anzi. Venite numerosi. Esatto. Accorrete a Corruomo. A Corropoli. Esatto. Però questa qui la capisce soltanto che dire la provincia di Teramo, manco abruzzese. Ma vabbè, c'è cioè proprio sì, ultra targettizzato. Siamo allo specismo più spinto, assolutamente. Capisco. Molto bene. Quindi poi vi racconteremo, quest'anno purtroppo non siamo riusciti per una serie di vicissitudini ad avere le voci dirette di Cristian Cornia e di Lucio, non mi ricordo il suo cognome, che sono comunque il responsabile della sezione comics e della sezione games, ma comunque vi racconteremo noi che cosa ci sarà in questo aspetta. Interessantissimo weekend nerdissimo a Bologna. Ma intanto cominciamo prima di tutto, se nerd all'ascolto, se ci volete contattare tramite SMS, WhatsApp, Telegram, il numero è sempre lo stesso, quindi 333 1809 494, e noi saltiamo così, salti in banco subito con questa puntata un po' nerdosa con Ivan Allen. Cosa c'entrano con il nerdismo? Assolutamente niente. così, giusto per rompere il fiato, cioè cominciamo, sì, benissimo. Io sai che ho già finito il fiato la settimana prossima dopo questa canzone, vero? Ecco, no, cioè che sia chiaro. Peraltro già fiato che ho già speso in abbondanza stamattina, quando alle ore 10 è arrivata la conferma ufficiale che il 25 maggio a Reggio Emilia ci sono gli AC/DC, quindi e sono già lì che sto litigando con i miei amici. Al campo volo. Sì. Per gli ACD si litigo con gli amici, anche, perché no, perché il problema è che io voglio andarli a vedere, cioè no, in realtà vogliamo andarli a vedere, siamo già il solito gruppone che vuole andarli a vedere, è un problema perché qualcuno che vedo che ha fatto i sordi, no, vuole andare nel pit, io non sono andato a vedere, non sono ancora, non ci sono i prezzi, ok anche perché hai messo lo sfondo di Street Fighter? Assolutamente il sfondo, sì. Il tappeto di Street Fighter, bene. Credo sia pennello anche con diciamo le scazzottate virtuali tra te e i tuoi amici. Insomma, esattamente. Perché il problema è che allora andare nel pit è molto bello, ok? Sì. Andare al pit è molto bello, ma è una cosa che è contrario alla mia filosofia da concerti. Ok. Ok. Per una ragione molto semplice, perché il pit è una squallida invenzione moderna borghese, ok? Intanto che ha tolto quella bellissima cosa dell'accamparsi davanti ai cancelli e della corsa all'apertura dei cancelli per essere in trasenna, cosa che facevo quando ero magro, coi capelli avevo 20 anni e non avevo una stomia. Dettagli. Però vedi, ormai è un meccanismo che premia chi è più veloce a cliccare, già questo purtroppo succede per i concerti, ma anche chi c'ha più fresca da spendere. Sì. È un meccanismo antidemocratico, mentre invece tutti con lo stesso biglietto, vuoi stare in transenna, sbattiti, arriva la prima, dormi lì la notte, non mi piace, io sono contrario al meccanismo del pit. C'è qualcuno che... Il meccanismo del pit, lo dirò di più, il meccanismo del pit è un meccanismo fascista, ecco. Pensavo dicessi una cagata pazzesca, ma quello è le due cose sono strettamente collegate. Assolutamente. Quindi assolutamente. C'era qualcuno che negli anni diceva no, il pit sì, è un po' una divisione, però anche per questioni di sicurezza, in maniera tale che c'è comunque una barriera se ci sono concerti da 50-60 mila persone. Fai le zone, ma fa lo stesso, lascia come in Giappone, lascia la possibilità, cioè voglio dire, quando sono stato a vedere i Guns N' Roses a Roma, siamo stati noi che siamo arrivati belli, comodi, sciallatissimi, proprio rilassati, siamo stati indirizzati su dove potevamo andare. Ed è così, peraltro, vabbè, noi avevamo cucato una postazione ottima dove io ho visto benissimo, quindi con mezzo secondo di ritardo dell'audio sul video, e quindi anche quelle sono esperienze. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Li vedevo prima quando Axel avrebbe stecchiato, strepitoso. E non l'ha fatto tanto, quindi in realtà gli ho voluto bene. Comunque, questo insomma era l'altra notizia. No, invece tornando al tema della puntata, il nostro nerdissimo nerd show di sabato 17 domenica 18, c'è un programma allucinante. Allora io intanto sparo due bombe subito, vai. Che insomma a me fanno impazzire, Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Top. Così. Top. Non... Dimmi che perché stai parlando, io ho detto Cristina D'Avena e tu hai detto top. Ok, Andrea, cioè su un po' di contegno. Senti, io sono reduce da 5 giorni di Sanremo, in cui domenica sono andato a dormire alle 5:10 di mattina per finire gli articoli e le robe da postare su Instagram e tutti quanti i social di The Soundcheck. Io sono un uomo devastato. Okay, io ieri all'una e mezza di notte ero ancora freschissimo e io mi sono imposto di dover dormire. Molto bene. Dopo questo io sappi che intanto vado a recuperare chi mi hai fatto pensare con le tue dichiarazioni. Vediamo se ce la faccio. Cosa ti è scattato nella mente? Eccoci qua. Vediamo se lo troviamo. Eccoci qua, scusami. Attenzione. Un attimo. Sì. Un attimo solo. La bambina è ancora vomitata. Vabbè, mi spiace. Però sai Aldo quanto me l'ha messo il carburatore? Ma che c'è? Lo sai quanto me l'ha messo? Ma chi è Aldo? Scusi, ma chi è? Un adepto, il meccanico? La seconda che hai detto. Ecco. Tu sei stato il profeta di quello in questo momento, lo volevo dire. Comunque, no, vabbè, tornando a cose più serie, costruire su macerie e mantenermi vivo. Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, Giorgio che è con la sua band, che a me fa morire perché la sua band si chiama I Figli di Goku, che è a metà fra citazionismo e insulto. È un gran figlio di Goku, insomma. Cioè. No, oggi lo inizierò ad utilizzare. Ok, molto bene. Ah, vabbè, dopodiché c'è la qualunque, non sto. sto a leggere, vi dico soltanto la bomba di domenica, perché io sono impazzito. Dove, aspetta che lo vado a recuperare. No, scusami, di sabato. Dimmi. Ci sono dimmi. I talk, no, e nei talk c'è il talk che tutti desiderano io vedere. Io lo punto. Assolutamente, perché c'è il talk con i quattro volti, cito testualmente al comunicato, più rappresentativi della melevisione. Quindi... cioè, io non vi dico neanche i nomi veri, cioè vi dico i nomi dei personaggi, che ci saranno Tonio Cartonio, Milo Cotogno, Lupo Lucio e Fatalina. Io credo che sabato pomeriggio sarò assolutamente impegnato in questo strepitoso momento di revival io nostalgico, direi. Peraltro, vabbè, cioè io penso tutti i membri fatti su Tonio Cartonio. Mamma in questo mia, momento sì, cioè, penso, io voglio andare a salutare Danilo Bertazzi, a stringerlo in un abbraccio e dirgli non ci abbiamo mai creduto. Sappiamo che è non vero, eri tu. Ecco. Sappiamo che non era. Domenica lui, ce l'ha già l'Appas. Dannazione, io probabilmente domenica non riesco a passare. Non così tanto dannazione. Per dire, non, poi dopo vabbè vi sparo qualche altra così bombetta qua e là. Comunque. Va bene, io guarda, ti dico questo: sono le 21, 29 minuti e 42 secondi. Una canzone, 10 minuti di cretinate. Andrea, dobbiamo essere puntuali, è disastroso. Assolutamente. Questo ritardo è vergognoso. Ma no. È ma una cosa indegna. È una cosa indegna, ma noi invece lanciamo gli spot in perfetto orario. Vabbè, siamo perfetti, questo è evidente. Ok, allora tra pochissimo. Tra pochissimo. Ciao. Pubblicità. La musica è di tutti e per tutti. La Scuola Popolare di Musica Ivan Illich è aperta a chi vuole suonare e cantare insieme agli altri, a chi non ha mai preso uno strumento in mano, a chi vuole diventare un musicista, a chi vuole improvvisare, a chi vuole ascoltare musica slegata dai generi, a chi vuole imparare divertendosi. Tutto il resto non importa. Scuola Popolare Ivan Illich, nessuno escluso. Visita il sito www.spmii.it o chiama allo 051 357753. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco. Fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346-708-2065. Grazie signora Laura, lo chiamo subito. 346-708-2065. Scopri la magia della stagione teatrale 2023-2024, Tre Teatri per Te, del Comune di San Giovanni in Persiceto. Grandi artisti, grandi spettacoli e grandi storie. Scegli tra il biglietto singolo o le varie formule di abbonamento. Informati allo 051 82 50 22 o manda una mail a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. Tre Teatri per Te, che la magia abbia inizio. Venerdì 16 febbraio al Teatro Comunale Ric Dufer in Le cogitate impossibili. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. Boing. E comunque questo sottofondo mai fu più adatto, perché a Nerd Show ci sarà anche tutta la parte del retro gaming e dell'arcade coin op. Ma io vado principalmente anche per quello. In effetti sì. A fare un po' di trattative con le cartucce del Super Nintendo. Allora, guarda, le aree videogames conciliano i classici arcade e le postazioni new gen, a pochi passi dalla grande Gamers Arena, con centinaia di nuove console e i tornei ai titoli più amati al momento. Call of Duty, Fortnite, Tekken 8 appena uscito, è uscito e Mario Kart hanno spazio a quasi 100 cabinati coin op e la grande retro gaming zone per la gioia di tutti i ragazzi cresciuti negli anni 80 e 90. Salutiamo il mio mitico amico Max, che è uno dei protagonisti dell'area retro, veramente meritevole. Un'occasione imperdibile per ritrovare i giochi che hanno fatto la storia da Space Invaders a Pac-Man a Bubble Bubble, che per inciso Bubble è la tua suoneria nel mio telefono. Quando mi chiami suona Bubble. Suona, attacca il Io questa cosa non la sapevo. Lo so. Ma volevo mettere la musichetta di Vega che muore, ma dura troppo poco. Allora, come Vega, dura troppo poco. Oh, santi numi, perché? Perché? Perché? Perché sei scarso e io no, vedi, è facile. Ma basta, per favore, insomma. Ti dico che sto pensando di fare un investimento e comprare per la PlayStation 5, momento veramente nerd autoreferenziale, Street Fighter 6. Solo per farti provare l'ebbrezza di essere malmenato anche nell'ultima console next gen. Sì, però io non sono abituato a agli Street Fighter, quelli dal 4 in poi. Neanche io non l'ho ancora provato. Cioè, allora va bene. Va bene. Nudi come siamo nati. Sì, no, questa è una brutta immagine. Cioè, il duello Street Fighter nudi è una cosa che io vorrei risparmiare. Chi perde si denuda? Per chi è la penitenza? Vabbè, allora, aspetta, quindi io devo sicuramente vincere, perché in questo caso con una diretta streaming sui canali giusti monetizzo se tu ti spogli. Mi sembra che abbiamo un business. Bravo Andrea, verrai drogato prima di giocare. Il sito nero e arancione non l'avevo preventivato. Ma va bene anche quello, ma va bene anche il sito blu. Ah, oddio, la faccenda si sta iniziando a infangarsi un po' troppo. È fortuna che non siamo daltonici. No, la lotta del fango con la maglietta bagnata te la faccio fare un'altra volta. Tranquillo. Allora, guarda, cioè, ci serve materiale per le puntate successive. Visto e considerato che prima parlavamo comunque di concerti, di Guns N' Roses, del Pit, salutiamo Michel Michel. No, non so, chiedo scusa, non so leggere bene il tuo nome. Michel, comunque. Non sai leggere. Non lo so leggere, basta. Che dice: luglio 1997, Wembley Stadium, prima che lo tirassero giù. Quindi già letteralmente di un'altra il nostro epoca, cioè veramente sei il nostro idolo, perché io non sono mai riuscito ad andare. Concerto degli U2, entrato come un fulmine, la mia ragazza attaccata alle transenne in prima fila, tutto il concerto a mezzo metro. Che spettacolo. Praticamente sono uscito come adesso di ritorno alla palestra, cioè praticamente sudato, fradicio e tutto il resto, bla bla bla, e si è trovato Bono Vox a tre metri in piedi sulla transenna con i fan che lo tirano da una parte all'altra. Ecco, e questa esperienza secondo voi deve essere concessa solo a uno stronzo che può pagare 100 euro in più il biglietto? No, vaffanculo al Pit, dai, basta. Sì, basta, è una modalità sbagliata. Bravo, violenza. Violence! Miau. Miau, miau. Complimenti, pregianza. Veramente, quando sento io del pregio così, non... Assolutamente. Assolutamente. Mi stai facendo ascoltare... Take on Me rifatta 8 bit Nintendo style, sì. Nintendo style, molto, sì. Bene, molto bene. Solo robe di alta qualità qui. E tu mi stai dicendo che ovviamente c'è un canale apposta anche per questo. Numerosi. Molto bene, perché così come esiste un negozio per ogni cosa, così se tu volessi regalare, che so, un cavallo morto da prendere a calci a qualcuno. Scusa, no, non me ne vogliono. Non è animal shaming. È un richiama una vecchia battuta di una striscia di Dilbert. Ok. Dilbert, mamma mia. Esatto, per cui non. Perdonatemi, non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Ma non, comunque ti dirò di più. Se all'ascolto c'è qualche come me che ha i neuroni oramai che stanno facendo festa quando la festa oramai è finita. Festa fino a mattina. Ci sono anche dei canali con le, che ne so, Californication, sì, di Red Hot Chili Peppers, tutto l'album, non solo, sì, la canzone, tutto l'album rifatta con i suoni di Donkey Kong Country. Oddio Gesù. Oppure... Ma d'altronde oggi ho visto un video, ok, uno spezzone di alcuni secondi di Barbie, il film, sì, recente rifatto in codice ASCII. Quindi, merda di tutto il mondo, unitevi, perché okay, veramente... Questa batte tutto, sì, questa batte tutto. Sì, lo so, dopo ti mostro, dopo ti mostro. Comunque... Okay. Stavamo parlando, nel frattempo, insomma, grandi cose ci aspettano al nerdo sciobbo. Esatto, peraltro c'è questo... così c'è anche questo momento dedicato al doppiaggio, perché c'è la Musa d'Oro, che è il premio appunto per le più grandi voci del doppiaggio italiano, ovviamente in ambito nerd. Yes. E anche già l'anno scorso, insomma, era stato piuttosto divertente. Se non mi ricordo male, ha vinto il nostro amico Maurizio Merluzzo l'anno scorso. Il Merluz 2 anni, forse due anni fa. Forse due anni fa. Comunque, quest'anno in giuria c'è. Adesso io non vi sto a dire i nomi perché non li, probabilmente non li riconoscete, ma ci saranno le voci di Goku e Vegeta di Dragon Ball Super, la voce di Brenda di Beverly Hills, questa è Giorgia Lepore, la mitica Giorgia Lepore, e poi ci sarà la grande voce del nostro amatissimo Kenshiro. Il Kenshiro originale, quello dove c'erano 250 personaggi e i doppiatori erano 3.5. Esatto, fondamentalmente. Esatto, esattamente. Un attimo su questo. Che sono, tra l'altro, sono aneddoti di vita vera, perché l'hanno detto pure loro. Erano in 4 e facevano spesse volte anche uno faceva 4 personaggi nella stessa scena. Anche. D'altronde, questo. Un attimo solo, scusami. Sì. Sento il vento. Morirai. Ho toccato il tuo punto segreto di pressione. Morirai molto presto, mi dispiace. E tra quanto morirò precisamente? Tra 10 secondi esatti. Ora li conterò. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ovviamente quello che esplode è quello che faceva il conto alla rovescia. Quello che si fingeva Kendy Okuto. Insomma, è vero, che bello. Quindi. Era una delle primissime puntate, sì, se non la prima forse. Forse la prima, sì. Fra quanto morirò? Sono cose belle. Peraltro è circolato proprio negli ambienti nerd in questi giorni una serie di immagini dei personaggi di Kenshiro rifatti come se fossero persone reali, sì, fatte con la I. E devo dire che sono veramente notevoli. Per cui io che sono un fervido luddista nei confronti dell'intelligenza artificiale, devo ammettere che what a time to be alive, almeno per queste cose. Ci Barbie sta. Nasci art e i personaggi di Kenshiro come persone reali. Io mi accontento di poco, vedi? Da un estremo all'altro, però. Esatto. Dalle linee invece al fotorealismo fake, però. Va bene, va bene. A proposito di fake, no, a proposito niente di fake, io direi di andare con un altro pezzo. C'è zio Billy, Billy Idol. Beh, cioè, zio Billy va sempre molto bene. Ah sì, sì, io direi sì. Stavamo chiacchierando belli belli come al solito. Sì, ma va bene, va bene. Il tempo bene. Vola quando ci si diverte, soprattutto quando cominci un quarto d'ora dopo. Ma va bene. Ma va bene così, ma va bene così. Mamma. Bossa, ale, ale, ale, via. E via così. E via così. Così. Versione medievale però. Pregevolissima. Hai visto? Donna. Io non posso essere serio di fronte a queste cose, Andrea. Però non ho ancora trovato un personaggio con cui malmenarti Mortal Kombat, in effetti. Potremmo cercarlo. Ma sono meno performante. Io odiavo Mortal Kombat, almeno quelli fino al 3, perché era troppo difficile. E poi una volta il tizio della sala giochi, siccome aveva visto che ci avevo speso letteralmente 15.000 lire però, in una però, sera però è entrato nel magico mondo del tastino sopra il cabinato, entra nel menu e mette modalità facile. No. Io sono. Sai quando dicono determinate persone non esistono? C'è il maestro, hai capito? E io là. Quindi mi vuoi dire che prima quello stronzo. No, in realtà no, non era manco tanto stronzo, ero scarso io, era sì, normale. Sì. Però non riuscivo a uccidere Baraka, che era sempre al primo round. Ah, però non c'è male. Cioè, tu perdevi al primo scontro? Sì, vabbè, ma Mortal Kombat. Io venivo da Street Fighter, quindi avevo una certa manualità da quel punto di vista. Capisco. E poi sto iniziando a usare termini. E poi pensa che nonostante da quella manualità, senti, ti gonfio sempre come una zampogna. C'è l'aquila. Stai cercando di fare fatality. Non scherzi. Fatalità. Allora io ho smesso di giocare ai Mortal Kombat anch'io da molto tempo. Però continuo a guardarmi i video del gameplay, mm-hmm, per scoprire le centinaia, ormai, fatality. Perché ormai sono centinaia di fatality. Sì. Io non sono mai riuscito a farne una. Gli ultimi una volta, ma perché ho premuto i tasti a caso. Smanato, lo facevamo sono più spesso. Facilitato. Lo facevamo spesso. Ma lo so, ma noi siamo più arcade vecchia scuola. Sì, non Super Mario Bros. Poi c'è il giochino giapponese Turbo Pugnetta, di questo ve ne parlerò un'altra volta. Si bisognava pigiare i pulsanti, e noi l'avevamo ribattezzato il giochino così, non ripetibile in fascia portetta. Quindi, comunque, 21:53 al mio orologio, non so al tuo. 52:46. Eccellente, eccellente. Sento il vociare, sciamare le voci dei nostri amici di Balle di Fendi fuori dalla porta, per cui direi che noi fra qualche minuto ci toglieremo dai piedi, vi diamo l'appuntamento. Io e Andrea a questo punto contiamo di esserci, confidando che ci venga assegnato quantomeno un accredito stampa per la simpatia. Ma sì, sì, e sì, per sì, l'ignoranza, sì, ok? Saremo sabato e domenica. Cosa hai messo in sottofondo adesso? Ma cioè, io veramente. Tu immaginati però, un gioco del NES. Però sei tu che li odi. Sì, però questo. Sento che odi Kiss e il passi. Cioè, come il milkshake, ti fa schifo, ma non ne puoi fare a meno. Esatto. Anche bene, esatto. È così. Vabbè, Detroit Rock City è una bella canzone. Va bene, ok. Una delle poche che hanno fatto bene. Ci vediamo sabato e domenica al Bologna Nerd Show in fiera. Da una certa ora noi saremo in giro con le nostre, con queste facce qui di quelli che hanno visto Genova. Se vedete una persona con una maglietta maniche corte con la scritta Super Nintendo, sono io. Io probabilmente avrò cose più imbarazzanti. E peraltro, in realtà, salutiamo anche la nostra amica che sarà in Artist Alley, che ci sarà la nostra amica col suo Kawaii Closet. Vale, invito ad andare My Sweet Kawaii Closet, andatela a cercare anche su Instagram, sarà lì con le sue ottime creazioni. Noi assolutamente ci sentiamo lunedì prossimo, sempre che nel frattempo non abbiano deciso di buttarci fuori da questa radio. Ciao. molto felice. Vamo davanti, vamo il saluto. Fa te la tua testa. Fa te la tua testa. Fa te la tua testa. Forse non tutti sanno che al pub Birreria La Locanda c'è un nuovo impianto per la spillatura. Forse non tutti sanno che tra le vie di birra alla spina ce n'è una senza glutine. Forse non tutti sanno che il pub Birreria La Locanda è in via Treves 19 a Bologna, zona stadio. Forse non tutti sanno che si sta bene, ma se tu non lo sai, vai al pub Birreria La Locanda e sappilo! Stagione teatrale 2024 di Crevalcore. Mercoledì 31 gennaio alle 21, all'Auditorium 1 maggio di Crevalcore. Racconti neri e altre storie di Pepe Carvaglio, con Fabio Troiano. Uno spettacolo sull'incredibile personaggio immaginario, letterario, cinematografico e televisivo di Pepe Carvaglio, con Fabio Troiano, accompagnato